Messico, lo strapotere dei narcos. America Latina, la calma dopo la tempesta. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. Mientras estoy aquí, diputados están siendo secuestrados, encarcelados por mi presencia aquí. Todos los chilenos hemos vivido tiempos duros y difíciles que han golpeado el cuerpo y el alma de nuestra sociedad. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. 16:09 minuti 09 secondi, inizia una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. La squadra, con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo, Roberta Frisani che è in regia. 349-238-6666 per domande e commenti via SMS e via WhatsApp. Per commentare i temi di questa puntata di Nessun Luogo Lontano c'è anche Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, poi c'è Twitter, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano lasciamo per un momento il caos nel Medio Oriente, nei paesi del Golfo, lasciamo per un attimino la Cina, anche se continueremo naturalmente a parlarne, per concentrarci su quella che potremmo definire la calma apparente dopo la tempesta. Tanti paesi dell'America Latina nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, sono stati attraversati da scossoni, da grandissime proteste popolari, di cui tuttora vediamo dispiegati gli effetti politici. E poi un focus particolare sul Messico, perché ogni tanto qui a Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo quello che a tutti gli effetti un parastato, quello dei narcos, dei cartelli messicani, della droga, quella cocaina che dalla Colombia, grande hub della produzione, passa in Messico, dal Messico, grazie ad altri broker, arriva persino in Italia, nelle nostre strade, nei nostri locali. Un'economia transnazionale e criminale che parte da lontano ma dispiega i suoi effetti anche qui da noi in Italia. Detto ciò, la prima cosa da fare, come sempre, è misurare la temperatura. Riapriamo il dossier Brexit e governo di Boris Johnson. Andiamo nel Regno Unito, anche se qualche analista ormai comincia a non usare più questo termine, ritenuto desueto, ormai un regno disunito, perché la Scozia, lo sapete, sta continuando a pigiare sull'acceleratore per quelle nuove proposte ormai continue di indipendenza. C'è sempre la questione repubblicana irlandese. Nelle scorse puntate abbiamo lungamente parlato di Irlanda, tratteggiando un futuro non troppo lontano, da qui a una decina, quindicina di anni, in cui si potrebbe realizzare quello che era il grande sogno dei nazionalisti repubblicani del nord dell'Irlanda, Bobby Sands in tutto su tutti, giusto per citare un esempio particolarmente noto anche al grande pubblico. Insomma, sembra che Boris Johnson stia riuscendo a fare quello che l'esercito repubblicano, l'IRA, formazione terroristica per tanti, non era riuscito a fare, con anche quei lasciti particolarmente benefici che ancora affliggono le sei contee del nord dell'Irlanda. Ma torniamo a Boris Johnson, che per molti appunto viene vissuto quasi come un mago, è riuscito a portarsi a casa la Brexit. Ora però ha bisogno di un ambiente politico a lui più confacente in qualche modo, che lo segua senza troppi dissidi interni, e sarebbero questi i motivi del profondo rimpasto che ha in mente appunto Boris Johnson. Un po' di ministri silurati, vuole rafforzare il governo dopo la Brexit, e in particolare il ministro per l'Irlanda del Nord, non è un caso, Julian Smith, il ministro delle finanze Sajid Javid, Teresa Villiers, l'ex ministra dello sviluppo economico. Insomma, una nuova formazione politica al governo che dovrebbe garantire a Boris Johnson di portare a termine quelle che sono state le sue promesse elettorali. Anche in Cina c'è fuoco politico, in particolare sono stati silurati i dirigenti della provincia di Hubei e di Wuhan. Proprio nelle ore in cui, lo avrete sentito dai GR, un nuovo sistema di conteggio e di valutazione degli impatti del coronavirus ha fatto schizzare in alto il numero dei nuovi contagiati. Come sapete, il governo di Pechino è particolarmente rigido quando si tratta di andare a valutare quelle che sono state le prestazioni politiche dei suoi suoi amministratori, e questo in parte potrebbe aver spiegato un certo ritardo anche nelle comunicazioni. L'abbiamo spiegato più volte da questi microfoni, probabilmente i governatori locali, pur di non incorrere nelle eventuali ammende, politicamente intese evidentemente, di Xi Jinping e dell'apparato di Pechino, preferivano cercare di gestire al meglio da sé quella che all'inizio sembrava un'emergenza gestibile, perché informare Pechino, informare il potere più in alto in grado, significava immediatamente ammettere la propria incapacità di fronteggiare l'emergenza, per cui questa struttura di potere potrebbe aver anche influito su questa mancata comunicazione. Come spesso succede per i funzionari cinesi che vengono destituiti dopo un errore così clamoroso, ed è il caso appunto della mancata gestione del coronavirus, la sopravvivenza politica di chi è stato amministratore di Hubei, di Wuhan, così come di tutto il loro staff, i consiglieri e quant'altro, è da ritenersi decisamente altamente improbabile. Apriamo anche il dossier Libia in questo termometro internazionale, perché ci sono un po' di notizie. Allora, innanzitutto, proprio ieri vi davamo conto della visita del nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio, che era andato a parlare a Tripoli con Fayez al-Serraj. Adesso è atterrato poche ore fa a Bengasi per parlare con il generale Haftar, colui che, muovendo un eterogeneo esercito e con l'appoggio degli Emirati Arabi Uniti, in particolare quella che sono i droni, il sistema di aviazione, e con i mercenari russi, sta premendo alle porte di Tripoli. In queste ore vi sono nuovi combattimenti proprio a sud. È utile ricordare che ogni volta che diamo notizia di questi combattimenti sono combattimenti in cui c'è una front line molto molto limitata, e lo stesso numero di soldati e combattenti è piuttosto limitato. Però è anche vero che stiamo parlando ormai dell'ingresso di Tripoli, e il fiato di Haftar sul governo di Serraj si fa sentire sempre di più. Probabilmente anche per questo Luigi Di Maio è volato a Bengasi per parlare con Haftar. Parlando di voli, purtroppo non ci resta che registrare ancora una volta la chiusura dell'aeroporto di Mitica a Tripoli, che era l'unico funzionante, proprio a causa di un intenso fuoco da parte delle batterie di artiglieria del generale Haftar, il quale ha negato a tutti gli effetti l'atterraggio e il decollo da parte persino dei voli delle Nazioni Unite, suggerendo di utilizzare l'aeroporto di Misurata. E qua si innesta, come dire, un linguaggio militare diplomatico nemmeno troppo sofisticato. Haftar dice: attenzione, Tripoli non è sicuro, non posso io garantire la sicurezza, utilizzate per favore Misurata, quando è evidente che sono proprio le sue forze che stanno assediando anche l'aeroporto di Tripoli. Un'ultima notizia: nel complesso dossier libico ci arriva da Bruxelles, perché c'è una dichiarazione di Jens Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, che dice: non siamo sul terreno in Libia, ma sosteniamo fermamente gli sforzi guidati dall'ONU per trovare una soluzione negoziata. Ha detto: siamo pronti ad aiutare la Libia col rafforzamento delle capacità se i libici lo chiederanno e se ci saranno le condizioni. Allora, per leggere tra le righe, quello che si intuisce è sostanzialmente un'apertura da parte della NATO a quella che potrebbe essere una missione militare. Ieri proprio vi raccontavamo col sottosegretario Mallo Di Stefano di un possibile intervento italiano in prima linea sotto egida Unione Europea. A questo punto si potrebbe affacciare il cappello NATO, che dal punto di vista, come dire, militare, di coordinamento e logistica eccetera, come dire, è un apparato già pronto e perfettamente funzionante, anche se, aggiungo io, sarebbe qualcosa di bizzarro una forza di interposizione, pensate, sotto cappello NATO, in cui da una parte c'è Serraj e dall'altra c'è Haftar, solo che dalla parte di Serraj ci sono anche i turchi, che sono membri della NATO. Insomma, spero di non dover raccontare questo incredibile paradosso bellico e geopolitico allo stesso tempo. Adesso però apriamo come sempre il nostro countdown, giù tutto. Bengasi ha 7 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 10 di gasolio, 11 di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, ha un solo giorno di gasolio e 4 di GPL. Anche Sebha non ha più capacità di stoccaggio di benzina e GPL, mentre ha 16 giorni di gasolio. La compagnia petrolifica libica conferma la diminuzione della produzione di petrolio a 191.475 barili al giorno, causato dal blocco dei porti da parte delle milizie di Haftar. E adesso, come promesso, apriamo la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Sapete che il tema del narcotraffico, e non solo, è un tema che ci è particolarmente caro. Indagare e raccontare come le economie criminali attuate in primis anche in luoghi molto lontani riescono a inquinare in maniera feroce anche le nostre economie, le nostre vite, ci sembra una storia che merita sempre di essere raccontata. Quando uno dice Messico gli viene immediatamente in mente cartello di Sinaloa, quando uno dice cartello gli viene immediatamente in mente coca. La storia che vi stiamo per raccontare lo faremo per immagini, sapete quanto amiamo la fotografia qui in Nessun Luogo Lontano, e con un fotoreporter di eccezione capirete meglio che queste semplici equazioni esattamente non funzionano. C'è un piccolo cortocircuito che quest'oggi vi racconteremo. La redazione di Nessun Luogo Lontano sta postando sui social adesso alcune immagini che vedrete. L'autore è Alfredo Bosco, è un fotoreporter, un fotogiornalista, da poco ha ricevuto il premio internazionale di fotogiornalismo Andrei Stenin. E questa sera stessa, tra poco vi darò le coordinate in maniera più precisa, esporrà questo lavoro realizzato nello stato di Guerrero in Messico, uno stato molto poco raccontato, nei pressi di Milano. Se dovessi riassumere l'ambiente in cui ha lavorato e ha fatto i suoi scatti Alfredo Bosco, è una sorta di Far West in cui è persino difficile capire chi è cattivo e chi è buono, le classiche divisioni manichee tra chi dovrebbe essere la guardia e chi il ladro, insomma, evaporano incredibilmente sotto una selva di proiettili e di armi imbracciate da chiunque, persino da una donna, una mamma che sulla schiena porta aggrappata la figlioletta. Ed è la foto che Alfredo Bosco ha scelto per raccontare il suo lavoro. Alfredo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qua. Come sai, come dicevo prima, amiamo molto il fotogiornalismo, è quello che consente di realizzare quella grande magia della narrazione, il passo in avanti, il passo indietro. Il passo in avanti l'hai fatto andando in Messico più volte nello stato di Guerrero, il passo indietro l'hai fatto perché, come tutti i bravi fotografi, non sei tu al centro della scena ma è le storie che racconti, e la storia che racconti è drammatica. Partiamo da quella foto però, Alfredo, se sei d'accordo, che intanto i nostri ascoltatori possono vedere sui nostri canali social. C'è una donna, una mamma che sembra una cittadina comune, e forse lo è a tutti gli effetti, ha persino una bimba aggrappata alla schiena, solo che c'ha un fucile in primo piano. Chi è? Allora, questa foto che io ho scelto, secondo me, riassume molto bene la situazione di Guerrero. Questa è una donna nativa della popolazione Nahuatl, e recentemente il suo villaggio, Rincon de Chautla, è sotto attacco di uno dei gruppi criminali più pericolosi dello stato di Guerrero, i Los Ardillos. Lei ha deciso di unirsi alla polizia comunitaria e quindi credo che si riassuma tutto, perché dai suoi vestiti si vede la cultura da cui lei viene, il fatto che ha un fucile, ma stiamo parlando di un fucile da caccia, anche sì, i mezzi poveri che ha, è principalmente il motivo, la bambina che ha sulle spalle, proteggere la sua famiglia. Sì. Allora, un'immagine fortemente iconica che riassume un po' tutti gli ingredienti della storia che racconta Alfredo Bosco, e fra l'altro stasera in mostra alla Cascina Roma, San Donato Milanese, in dialogo con Alberto Prina, che è un altro degli amici di Nessun Luogo Lontano, organizza il Festival della Fotografia Etica di Lodi, Forgotten Guerrero. Lo ripeto, ha vinto anche il concorso Andrei Stenin, riconoscimento della Croce Rossa. Buttate l'occhio al sito di Alfredo Bosco, adesso lo postiamo anche sui nostri canali, perché il lavoro è drammatico ma non indugia particolarmente, ci sono anche scene molto cruente, attenzione, però, come dire, riesce a rendere in maniera sobria e composta quella drammaticità che si vive sulle strade messicane. La guerra in Narcos è partita tanti anni fa, ormai 13 anni, vi ricordate il 2006 è stato l'anno forse più terribile, l'inizio di tutto, l'anno scorso è stato l'anno orribili per il Messico, in mezzo ci sono i cartelli messicani armati fino ai denti, i Marines e la Polizia Federale addestrate, armata anche dagli Stati Uniti, e in mezzo ci sono i cittadini semplici che soffrono la presenza dei cartelli messicani. Solo che c'è un particolare in più: oltre ad armarsi c'è una presenza non tanto di cocaina ma di enormi piantagioni di oppio, e questo è il primo cortocircuito di questa storia raccontata da Alfredo Bosco. Raccontaci meglio che cosa c'entra il traffico di oppio con i narcos messicani in un luogo, siamo peraltro non troppo distanti da Acapulco, che una volta era una grande meta turistica. Beh, infatti Acapulco è la città più importante dello stato di Guerrero. Guerrero da anni è il principale produttore del papavero d'oppio. Le persone spesso dimenticano che il Messico, dopo Afghanistan e Myanmar, è il principale esportatore di oppio al mondo. Se pensiamo con delle cifre anche semplici, Il 90% dell'eroina consumata negli Stati Uniti e nel Canada proviene proprio dal Messico. Il 60% di quell'eroina proviene da quella regione lì, solamente da quello stato lì. Una cifra simbolica è stato nel 2018, dove l'esercito messicano ha dichiarato l'eradicazione di ben 84.000 metri quadrati di campi. Una cifra enorme, veramente enorme. Questo ovviamente è un mercato che quindi sostiene i cartelli, in particolar modo senza Sinaloa e la famiglia Michoacán, ma purtroppo tristemente ha creato una guerra intestina proprio per il controllo di questo territorio, tra tutti i gruppi criminali radicati sul territorio. La voce e gli scatti di Alfredo Bosco a Nessun Luogo è Lontano ci restituisce uno spaccato particolarmente drammatico e complesso allo stesso tempo, in uno stato quasi dimenticato, quantomeno dai media, che molto spesso si affollano sul nord del Messico, complice anche la crisi migratoria, ma tra poco ne parleremo. Alfredo Bosco invece ha deciso di raccontare la storia di semplici cittadini che si armano. Nelle sue foto si vede un fucile da caccia imbracciato da una mamma con la figlia aggrappata alle spalle, ma si vedono anche fucili d'assalto. Se non erro, le mie modeste competenze militari mi fanno intravedere dei Kalashnikov, degli AK-47. Da chi vengono armati questi semplici cittadini che si riuniscono in queste comunità di autodifesa? Come trovano le armi? Allora, il Messico, come gli Stati Uniti, ha un grosso problema proprio del mercato delle armi. Accedere a determinate armi è abbastanza semplice, soprattutto se parliamo di fucili da caccia. Per quanto riguarda i Kalashnikov, non stai sbagliando. Queste armi provengono principalmente da tutti gli stati che durante gli anni della guerra fredda erano sostenuti dall'Unione Sovietica. Il problema è che dall'altra parte i cartelli invece hanno un equipaggiamento diverso e molto più complesso. Stiamo parlando proprio di equipaggiamento militare che viene quasi direttamente proprio dall'esercito messicano, sì. Perché infatti il Messico è fornito dagli Stati Uniti, sì. Quindi c'è proprio anche una disparità enorme proprio di armi. Sì. Loro si possono limitare solo con fucili da caccia, specialmente i piccoli villaggi in mezzo alle montagne di Guerrero. Certo. Una curiosità, per chi racconta storie come te in ambienti così ostili, Alfredo Bosco, come si fa a infilarsi in un ambiente in cui sostanzialmente, non dico che sei nemico di tutti, ma quasi, ecco. Allora, dipende dalle situazioni. Per quanto riguarda la mia storia, se parliamo ad esempio di Acapulco, io ho approfondito molto quello che purtroppo sono le scene del crimine e lì ho operato come qualsiasi reporter, quindi comunque con le chiamate, andando sul luogo, ed ero insieme ad altri colleghi, giornalisti, sì. Si prendono le chiamate. Il problema è invece quando si deve lavorare all'interno del territorio, quindi tra le montagne. Non posso andare ogni volta che voglio. Ad esempio Rincon de Chautla è un villaggio in mezzo alle montagne ma è circondato da questo gruppo criminale, quindi l'organizzazione per la sicurezza minima è lunga ed è necessaria, perché anche se può essere una situazione apparentemente tranquilla, non bisogna mai sottovalutare dove si è. Devo ricordare che il Messico comunque è tristemente noto per il record di reporter uccisi. Sì. Sì. Alfredo Bosco, potete ammirare la sua mossa se siete nei dintorni di Milano questa sera, Cascina Roma, San Donato e Milanese, in dialogo con Alberto Prima, Festival di Lodi, sono amici, diciamo, spesso l'occhio sul fotogiornalismo, ovviamente un festival di fotografia, ma anche su fotografi giovani e che con grande talento si stanno facendo strada. Alfredo Bosco, le sue foto le trovate sui nostri social e ripeto, se avete tempo, un salto alla Cascina Roma, San Donato Milanese, per riempirsi un po' gli occhi di storie di esteri fatte bene. Grazie mille Alfredo, buona giornata e buoni scatti. Grazie mille a voi e buon lavoro. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. La coca devasta il nostro tessuto sociale, le nostre leadership, come fu per la guerra dell'oppio in Cina, così un'ascoltatrice. Quanto sono rischiosi i reportage di questo tipo? È possibile tornare per monitorare l'evoluzione della situazione o sono one-off perché si finisce sulla lista nera dei cartelli? Alfredo Bosco è tornato più volte. Lì il talento, l'abilità è cercare di costruirsi una rete in qualche modo che ti consenta l'ingresso e l'uscita, ovviamente, perché il hit and run, come qualche grande cronista britannico lo chiama, come dire, consente di raccogliere la storia, ma poi tornarci e seguire le evoluzioni, che dovrebbe essere una delle nostre competenze, risulta particolarmente difficile. Ma a maggior ragione, come sottolineava Alfredo, bisogna davvero tantissimo preparare il viaggio, avere contatti solidi, sapere di chi fidarsi, perché non sempre è facile. E ripeto, Alfredo mi confidava prima della diretta che ha tutta l'intenzione di tornare per proseguire questo lavoro che, ripeto, lo trovo straordinario, molto iconico, molto equilibrato. C'è violenza, ma non indugia nella violenza, Insomma, un gran bel lavoro. Allora, torniamo e continuiamo a parlare di Messico, perché vi dicevo che il 2019 è stato l'anno più letale da quando vengono calcolate le statistiche sui delitti. Secondo i dati ufficiali elaborati dal Ministero della Pubblica Sicurezza, l'anno scorso in tutto il territorio messicano sono stati commessi 34.582 omicidi, un aumento del 2,5% rispetto al 2018, che si era chiuso con 33.743 morti. Queste benefiche statistiche dell'anno scorso ci raccontano di un paese nel quale si commette una media di, pensate, 95 omicidi al giorno. La narcoguerra, una guerra civile tra i vari cartelli, lo Stato centrale, gli Stati federali, ha completamente destabilizzato il paese ed è iniziata, come ricordavamo prima, ufficialmente nel 2006. Da quel momento sono state uccise 275.000 persone e chi segue un po' l'attualità internazionale ricorderà quelle immagini incredibilmente drammatiche dei Marines, i Marines messicani, in giro per le grandi città del Messico. Quella guerra ha cambiato forma, è a volte molto più sotterranea, molto più silenziosa, ma continua a dispiegare i suoi effetti. Non mi stancherò mai di dirlo, diamo spesso notizie da questi microfoni dei sequestri di coca record che vengono registrati nei porti europei e italiani. Ecco, un effetto di quella narcoguerra è anche l'arrivo della cocaina. Nel 2019, questo è l'ultimo dato, nel giugno si è registrata la cifra più mortale, 2.993 vittime. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Lucia Capuzzi, giornalista di Esteri, di Avvenire, esperta di America Latina. Lucia, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Allora, Obrador era stato eletto, il presidente messicano, con grandi speranze. Sembrava quello che avrebbe portato più denaro, perdonatemi il lapsus, nelle tasche dei messicani, soprattutto le fasce più deboli, ma soprattutto sottraendo le fasce più deboli al potere, allo strapotere dei cartelli, di cui il fotogiornalista ci ha appena restituito un'immagine assolutamente drammatica. A poco più di un anno dell'elezione, cosa rimane di quelle speranze e che bilancio possiamo fare? Allora, dal punto di il governo di López Obrador ha avuto il merito di cambiare la retorica riguardo alla guerra alla droga, ovvero per 12 anni di fatto in Messico si è avuta tutta la retorica della guerra alla droga, della strategia militare contro i cartelli, tra l'altro una strategia disegnata da l'ex ministro dell'allora presidente Calderón, Gerardo García Luna, che adesso si è stato arrestato appunto negli Stati Uniti per narcotraffico. Sì. Quindi questo ci fa capire un po' quanto fosse caso emblematico, assolutamente. Ascolta, Lucia, ti proporrei una cosa, siccome il ragionamento è interessante richiede un po' di tempo. Facciamo una piccola pausa, la borsa, poi torno da te. Nessun luogo è lontano. Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Così all'inizio Obrador aveva anche infiammato gli animi politici. Con Lucia Capuzzi, redazione Esteri di Avvenire, stiamo cercando di capire cosa anche di quella retorica incendiaria della narcoguerra, della guerra, anzi perdonatemi, contro i narcos è rimasta. Lucia, ben ritrovata, andiamo avanti con il ragionamento che mi sembrava interessante. Eccomi, buon pomeriggio. Sì, allora, sicuramente López Obrador ha cambiato la retorica della guerra alla droga, nel senso che è sparita questa retorica di questa strategia militare dal punto di vista retorico. Nella pratica, però, López Obrador ha di fatto mostrato molta incertezza nel come gestire il problema della sicurezza. C'era stato tutta in campagna elettorale, c'era stato un complesso piano che prevedeva una serie di investimenti sociali. La strategia di López Obrador punta a sottrarre ai cartelli la loro base di appoggio sociale, che sono soprattutto i ragazzi più poveri dei quartieri dimenticati. Questo è stato fatto solo a metà, cioè è stato messo sulla carta, però di fatto ancora la strategia non è partita, né è partito quel grande progetto di commissione verità piuttosto che di repulisti all'interno delle istituzioni, perché la narcoguerra è una guerra tra cartelli della droga, però che hanno dalla loro parte, sono riusciti a corrompere e a infiltrare intere porzioni di Stato, quindi è una guerra che coinvolge i cartelli ma coinvolge anche le diverse istituzioni dello Stato. Quindi di fatto anche poi alla fine, al di là della retorica, lo stesso López Obrador ha creato l'ennesimo nuovo corpo speciale, la cosiddetta Guardia Nazionale, teoricamente in funzione antinarcotraffico, la cui unica funzione finora è stata quella di contenere i migranti centroamericani. Sì, sì. Allora, questa complessità della situazione in cui la criminalità organizzata che lavora sul narcotraffico ha una disponibilità di cash inimmaginabile, è chiaro che consente di comprare facilmente anche funzionari di polizia o dell'esercito ad altissimo livello. Qua stiamo parlando di milioni e milioni di euro, quindi è evidente che è un'arma efficacissima nelle mani dei cartelli messicani. Un altro aspetto che Alfredo Bosco, il fotoreporter che abbiamo ospitato poco prima di te, Lucia, mostrava con grande chiarezza nelle sue immagini è il fatto che c'è questo proliferare di armi e di gruppi di civili che si armano per autodifesa, e questo crea ancora confusione, come se fosse una storia nella storia, una guerra nella guerra, e i numeri delle violenze decisamente danno contezza di questa complessità. Come si risolve il problema? Come si fa a intaccare il potere dei narcos quando anche chi dovrebbe intaccarlo è, come dire, contaminato, è avvelenato? E questa è la domanda da un milione di dollari, però in realtà ci sono delle strategie sperimentate alla stessa Italia, pur con tutti i problemi che abbiamo nella lotta alla mafia, che hanno dato frutti, e sicuramente la strategia militare non è la strada, questo l'abbiamo visto in Messico, certo, e lo vediamo, perché i cartelli non sono un esercito nemico che ti affronta in campo aperto, la loro grande forza è quella di corruzione e di infiltrazione delle istituzioni. E allora a questo punto la grande sfida è quella di impoverire i cartelli. E come si fa? Si fa impedendo di riciclare il denaro che hanno in una serie di attività legali, come spesso accade. Non dimentichiamo che i sequestri, ad esempio, vengono pagati attraverso appunto money transfer, piuttosto che Western Union, che tutte le varie agenzie. Quindi ci sono degli strumenti legali per ridurre i proventi del narcotraffico, combattendo il riciclaggio, combattendo la corruzione, facendo una riforma della giustizia, perché sin quando la procura continua ad essere un organo politico di fatto, perché viene nominato dal presidente e deve avere il placet governativo, non si garantisce pienamente la sua indipendenza. Chiarissimo. Quindi una reale divisione dei poteri, e poi follow the money, come si dice, andare a intaccare quella che è la disponibilità finanziaria e patrimoniale di organizzazioni che fatturano miliardi di dollari ogni anno. La voce di Lucia Capuzzi, giornalista di Esteri di Avvenire, che ben conosce il Messico. L'ultima domanda per te: ci arriva il destro, ce lo dà Jorge Ramos, che ha scritto un editoriale su New York Times dicendo che il famoso muro che Trump voleva costruire col Messico in realtà è già dentro il Messico, perché ci sono decine, centinaia, migliaia di storie di deportazione a tutti gli effetti di migranti che arrivano da Ecuador, da Venezuela, eccetera, che vengono rimandati indietro non dalla polizia statunitense, ma addirittura già dal Messico, in sostanza esternalizzazione dei confini. E cos'è? Grande efficacia della politica trumpiana, dell'amministrazione statunitense, o asservimento di Obrador al colosso, al cugino vicino? Tutte e due le cose. Di fatto Trump è riuscito nella sua strategia di contenimento dei migranti con l'alleanza del più insospettabile, cioè il nazionalista, il progressista López Obrador, il quale ha creato un doppio imbuto. Nella frontiera sud, cioè quella col Guatemala da cui entrano i centroamericani, di fatto viene impedito ai centroamericani di proseguire verso il nord, e qua il muro di contenimento la fa la famosa Guardia Nazionale. Nella frontiera nord addirittura le città messicane accolgono i richiedenti asilo che sono entrati negli Stati Uniti, che hanno presentato domanda negli Stati Uniti e che però vengono mandati in Messico ad aspettare l'esito della domanda, in zone, appunto, le città di frontiera del nord, che sono di fatto fuori dal controllo del governo, come abbiamo detto finora, con numeri di violenza inimmaginabili, in cui le vittime più fragili sono i migranti. C'era appunto un rapporto di Medici Senza Frontiere, è uscito proprio ieri No Way Out. In sostanza si vanno a colpire i più fragili in un paese già colmo di fragilità. Questo è un aspetto che ci piaceva, comunque era interessante da illuminare. Grazie mille Lucia Capuzzi, giornalista di Esteri e di Avvenire. Buona giornata e a prestissimo, Lucia. Buona giornata. 349-238-6666, un interessante messaggio via WhatsApp da Carlo. Il problema è che la retorica chavista di Obrador sta facendo fuggire i capitali all'estero da parte delle classi più benestanti. La minaccia di confische e di instabilità negli investimenti sta facendo sparire i soldi puliti. La mia famiglia in Messico si trova in queste condizioni. Così Carlo, che aggiunge, mentre evidentemente i narcos non sono stati toccati. Allora vi proporrei, andiamo a sentire immediatamente la viabilità e poi ci spostiamo di qualche migliaio di chilometri, perché oggi cerchiamo di fare il punto su tutte quelle proteste che hanno sconvolto l'America Latina. State con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano proverà a passare in rassegna molto sinteticamente quella che potrebbe sembrare apparentemente una situazione di calma in America Latina dopo le tempeste dei mesi scorsi. Tra poco, con Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, esperto proprio di America Latina, proveremo a passare in rassegna i case history un po' più eclatanti, mettiamola così. 349-238-6666 per voi. La corruzione, come la prostituzione, sono i lavori più vecchi del mondo. Si riducono regolarizzandoli. Per la corruzione è necessario normare le lobby e, nel caso in esame, regolando il traffico di stupefacenti. Così un ascoltatore che aggiunge un tassello, quello che potrebbe essere la ricetta per andare a debellare, tagliare le gambe ai narcos messicani, che, lo ricordo, sono un'organizzazione transnazionale, criminale. Il tutto parte dalla produzione in Colombia, abbiamo scoperto anche dell'oppio nel Messico stesso, e poi grazie a broker e ad agenti sparsi in tutto il mondo riescono a trasportare ingenti quantità, che poi, sapete, il meccanismo della cocaina, si aggiungono zeri sostanzialmente al suo valore a ogni porto che viene passato, ogni frontiera che viene felicemente, e parlo dal punto di vista dei trafficanti, passata. Roberto Darin, buongiorno, ben ritrovato qui da noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, io direi di partire da Venezuela, perché le ultime notizie, la cronaca ci restituisce la fine di questo lunghissimo tour di Guaidó, che è stato in Europa ma non solo, ed è tornato in Venezuela. Una volta tornato in Venezuela, quello che alcuni paesi europei hanno, come dire, hanno rispettato quell'etichetta presidente autoproclamatosi, qualcun altro ha iniziato a dire, tipo in Spagna è successo un mezzo scandalo politico, no, ma è il leader dell'opposizione. Insomma, in che veste è tornato un Guaidó che è stato quasi assalito dai sostenitori di Maduro, si è sfiorata quasi una rissa? Chi è Guaidó adesso politicamente? Guaidó è un personaggio che indubbiamente continua a avere il supporto degli Stati Uniti. Non a caso nel discorso alla nazione effettuato da Trump pochi giorni fa, Guaidó è stato ospite nel parterre dei VIP, poco lontano da Melania, la moglie di Trump, e da altri ospiti illustri. Quindi continua ad avere l'appoggio di Trump. Ciò detto, la sua posizione si è pesantemente indebolita, perché è ormai passato un anno da quando si è proclamato autopresidente e quasi nulla di ciò che lui aveva anticipato si è poi verificato. Quindi la sua di fatto è una sconfitta politica riconosciuta ormai anche da molti dei suoi supporter. Il caso più eclatante risale proprio a pochi giorni fa, in cui Chevron, che è la terza società petrolifera per grandezza in quanto a capitalizzazione di borsa, ha detto che torna a rilanciare gli investimenti in Venezuela. Sapendo che il Venezuela è il paese al mondo col maggior numero di riserve petrolifere provate, 300 miliardi di dollari, la business community sta di fatto sconfessando la linea dura di Trump, incentivando invece un dialogo e un ritorno degli investimenti. Quindi la posizione di Guaidó, che formalmente è il presidente autoproclamato e che ha ricevuto l'appoggio pesantissimo degli Stati Uniti, ma naturalmente il non riconoscimento di tanti altri paesi, tra i quali Russia e Cina, che invece continuano a offrire l'appoggio al presidente Maduro, concluderei che si è drammaticamente indebolito il suo peso. Sì. Allora, qui a Nessun Luogo Lontano cerchiamo sempre di mettere il grandangolo e capire anche che è fondamentale in una zona come l'America Latina capire quali sono le alleanze. Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, ha iniziato a mettere un po' di punti importanti, ricordando quella presenza di Juan Guaidó a pochi metri da Donald Trump e vicino alla moglie, ricordando come c'è una Russia che da sempre sostiene invece Maduro, e poi c'è però l'interesse della comunità, quella del business, quella più pesante dal punto di vista economico, che si vorrebbe riaffacciare in un Venezuela che però, attenzione, dal punto di vista della società civile è martoriato, è diviso, un sacco di profughi. Come fa anche una iniezione non solo di fiducia ma anche economica di un colosso come Chevron a, se non c'è un'adeguata amministrazione, a risollevare lo Stato dal punto di vista sociale? Non è che Chevron c'ha la bacchetta magica e si sostituisce a Nicolás Maduro. No, è giustissimo quello che tu dici, semplicemente Chevron fa un calcolo economico, dice il 90% degli ingressi in valuta del Venezuela sono dipendenti dal petrolio, punto. Se noi lasciamo questo spazio libero viene occupato da Rosneft, che è la società petrolifera russa, e dai cinesi. Quindi è un discorso strategico, punto uno. Punto due, un discorso di opportunità economica. Allora, sembra farti eco un ascoltatore, uno di quelli più attenti qui nel suo luogo lontano. Il problema di Guaidó è che l'Europa non può inimicarsi la Russia a causa Siria e Libia, mentre le elezioni americane sembrano giocate sulla politica interna. È come se Trump in qualche modo giocasse in proiezione esterna, ma come dire, senza vivere quelle che sono le complessità dei teatri in cui si va a affacciare. Ne sia la prova che su tanti teatri, quelli medio orientali, che peraltro non sono esattamente di tua competenza, Roberto, c'è un progressivo ritiro. È anche vero che però quello che viene definito il giardino di casa a Donald Trump interessa sempre e comunque. Nicolás Maduro, che stato di salute sempre politicamente ha? Se dovessimo misurargli la temperatura, come facciamo qua ogni tanto a Nessun Luogo Lontano, c'ha la febbre ancora oppure... Sì, beh, io direi che è una malattia cronica la sua e quindi la società è pesantemente spaccata, quindi il Venezuela versa in cattive acque, questo è certo. Ciò detto, lui ha recuperato terreno, quindi rispetto ai momenti più cupi che ha vissuto, sotto Natale, ad esempio in dicembre, c'è stato una ripresina, si è verificata, quindi poco spiegabile, per, se non con con una iniezione di liquidità proveniente da Mosca. Questa è stata la spiegazione più diffusa. Quindi dei beni che non si vedevano da tempo sono ricomparsi, il dollaro ha ricominciato a circolare e vi racconto anche questo aneddoto, una sì. Nuova compagnia venezuelana ha iniziato a volare per le tratte interne e per le tratte regionali, tutti entusiasti. Naturalmente Maduro magna voce ha annunciato il lancio di questa nuova compagnia aerea venezuelana, ripetendolo chiaramente, sì. Ma udite le hostess a bordo erano russe, che ci dà anche un segnale molto plastico, no? Diciamo, anche dei legami fra i vari paesi. Abbiamo veramente pochissimo, ti chiedo 30 secondi per un'analisi brevissima. Abbiamo detto che molti paesi dell'America Latina, Colombia, Ecuador, Cile, sono stati squassati da un'ondata di protesta della società civile, corruzione, repressione da parte della polizia, disuguaglianze economiche soprattutto. Sì. Adesso sembra una calma apparente. Ti aspetti, date le poche risposte che sono arrivate dai governi, una ripresa e se sì, quando? Ripresa dell'economia? Delle contestazioni e delle sommosse popolari. Tutti i dossier rimangono aperti, quindi è difficile, ad esempio in Cile, che è il paese che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, ha avuto delle manifestazioni più importanti, con 30 morti, con Sebastián Piñera, il presidente in carica che è caduto al 7-8% di consensi. Coi carri armati in piazza. Con la società che avrebbe dovuto, il paese che era stato dipinto come un'oasi in America Latina, in verità con delle disparità sociali che lo hanno fatto esplodere. Ecco, proprio tra poche settimane dovrebbe iniziare la riscrittura addirittura della Costituzione, quindi tutte le forze politiche e sociali sono in campo, è un momento di grande fermento e con aspettative naturalmente elevate, ma al tempo stesso anche con nodi irrisolti, perché lo schema economico rimane quello neoliberista e molto divisivo che è stato adottato negli ultimi 20 anni. Grazie mille Roberto Darin per questa puntuale, come sempre precisa, fotografia. Roberto Fisani, una sola parola. Che significa titoli di coda, che significa ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.